sapere se tu, ma guardando lassù, forse un sogno sarà. Ora che riesco a mettere l'orgoglio di uomo da parte, capisco quanto starti vicino era davvero importante. Oh milady, sei tornata già nei miei pensieri, ricordi in cui tu eri presente fino a ieri. Stretti stretti da un potere che nessuna storia sai in questo mondo avrebbe potuto avere mai. Sì, lo ammetto, ho appeso la tua foto sul mio letto, a volte a guardarla mi fa un grande bello effetto. I tuoi ricordi mi fanno restare a galla in una stanza vuota senza aria, dove il mio respiro affanna. Come faccio a convincermi che non ti piaccio? Solo fino a qualche tempo fa ero tuo caldo raggio, tu il sole che splendeva su questa città, tu il cielo, cambiavi l'umore dentro me. Quante volte ho pensato di cadere e non rialzarmi, guardare tutto in negativo senza mai pensarci, perché tutto sembra quasi che ti cada addosso. E fermare questo inferno ora da solo io non posso. Una piromane stasera ha riacceso il mio cuore, e io su un foglio bianco mi improvviso uno scrittore. Voglio sapere se tu hai la risposta ai miei perché, ma guardando lassù, sono da solo questa notte. Forse un sogno sarà, cena lume di candela, fatti più vicino a me, dai, un'altra volta. Lo sai ti voglio bene e del resto non ci importa, ciò che conta ascolta è vivere il presente. Regala mio sorriso in questa notte fredda di settembre, i tuoi discorsi persi e i miei ricordi messi sparsi confondono le idee per chi cerca di orientarsi, darsi spiegazioni in questa vita in salita, cercare di capire se più avanti c'è riuscita. Sono in assoluta paranoia, no baby, non sono pronto ancora per affrontare un'altra storia. Ti sei presa la vittoria, pure la gloria, a me hai lasciato il tempo per scrivere la nostra storia. Oh no, quanto mi fa incazzare aver scoperto numeri nascosti nel tuo cellulare, e non ci credo se mi dici sono solo degli amici. Li ho sgamati e troppo presto sono semi poi radici. Caro Babbo Natale, stavolta non vale, ti ho chiesto una persona speciale invece uno scherzo di carnevale. Voglio sapere se tu hai la risposta ai miei perché, ma guardando lassù, sono da solo questa. Guardarsi negli occhi, una campana a due tocchi, non permettere mai che io più avanti ti tocchi. Ora è l'ultimo addio, siamo dentro un oblio, non c'è la scelta da fare, ero d'accordo anch'io. Non voglio più fare del male a me stesso, adesso sono da solo in questo freddo, cerco un telo più spesso e qualcuno da far leggere questa poesia. E la tristezza spero tanto il vento se la porti via. Voglio sapere se tu